Friuli nel mondo, 257esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, Giuseppe Marchetti. Nell'imminente primavera 1975 sarà pronta la ristampa di due importanti opere dello scomparso scrittore friulano Giuseppe Marchetti. Come venne doverosamente sottolineato nel corso della trasmissione a lui dedicata in questa rubrica nell'ottobre 1973, molto deve la cultura regionale e quella friulana in particolare a questo insigne studioso, storico, poeta e artista. Opportunamente aggiornato, è in ristampa presso le industrie grafiche del Bianco il volume Il Friuli, Uomini e Tempi, uscito nel 1959 e da qualche anno ormai introvabile. Mentre nelle officine delle arti grafiche friulane è pronto per la rilegatura, con una felice aggiunta di Contis e di Fufinis, la gustosa raccolta di Predicis d'Almuini, esaurita anch'essa da vario tempo. Due opere di contenuto assai dissimili, ma che rivelano la grande cultura e la straordinaria genialità del compianto Giuseppe Marchetti, troppo precocemente strappato alla storia, alla letteratura, alla critica, alla filologia, alla biografia e alle arti del nostro Friuli. Lieti di questo avvenimento editoriale, vogliamo farvi ascoltare, cari emigrati, due piacevoli prose, ora inserite nell'aggiunta a Lis Predicis d'Almuini. La prima si riferisce al periodo conclusivo del secondo conflitto mondiale, ed in esso Marchetti ci presenta, con amaro realismo e con sottile sarcasmo, la figura di un vecchio contadino che viveva solo, lontano da tutti, e quindi ignaro di quanto intorno a lui avveniva in momenti tragici e determinanti della nostra recente storia. Salvà l'Italia. Ma sottunisse, agli erum biadvieli, che dopo restad vedul e mandadi samarid lis dos frutatis, al viveve bessolinte so chiasute fur dal pais, cunt un flic di tiare, un evaciute, un mul, un purcit, un par di pioris, quattro gialinis e un giat vieli poc mancul di lui. Noi commentave di plui e non seciave li smirindis a di nessun. Unedì, agliere da ura pastana un stropù di civole in som de braidute, quanche un automobil al si fermà sulla strada e di là decise e subit a saltare in fur tre quattro soldati. A sburtare in il quartel, i vignir in doglie, e un graduato, i domandan non e sore non, e se so pari, agliere muart o viv. Po folk, disse al masut, ondai se tante sisio, c'è muto leso calse di viv mio pari, non so imigo fini Matusalem. Il graduato i consegna une chiarte plene di timbros. Or, poela, non sai lei co soi cencio chiai calviodi. Po ben, disse al militar, o savesse che è la guerra, e tutti i cittadini devono fare loro dove per salvare l'Italia. Oh, ben sor sì, Calviodi. E allora us men invia il mul. Ciò, disse al masut, magari il mul non è un cittadino, ma il covente per fare la guerra. Dopo finite, us al tornin. I lassare in la chiarte cui timbros e menare in via il so basili. Non stai ta dai di bevi masse, parce che al sud è tanto un cristian, al disse il vieli. Al passà un piaciut di timp, e masut al scugni fasci arà il chiamput cui bus di vigli, cal steve la iudisot. Ogni tant, al devene ualmade per strade, sal tornave basili. Arrivare in invecit, un edì di sciarade, prime de vendeme, un trop di todescs. Eraus, ferrater! Nix fersten! Disse al masut scaturit. Fai chi italiani! I molari un par di pidadis e menare in via la vacchia, parca l'imparasse calul ditra di Hitler. Masut non capive c'è tradiment che ves fat la flore, ma al tasecidin par vie de peleate. Un par di mes dopo, a capitare in altri stodescs, a entrare in cusine, i batteri une man sulla spalle e con biele maniere. Oh, buongiorno, crossfater, tu buon camarad! E spiegare che non gli era più nessun tradimento, par vie che gli era tornata a batti con lor per salvezze dell'Italia. E tabae tabae, par talian e par todesc un po' parfate, i beveri in miez caratel di vin e menare in via il purcit di grasse. Ma queste volte i metteri in man un blec di chiarte. Alvenga stai che cula chiarte non si implene la bufule, al pensar Puarom quanche fuori in partiz. Po ben, prima la patria e dopo la quince. Un an dopo, che il Vieri cence quince e cence companadi, all'ieri intrigata portassi a Toris e i carnevai, ti plene gnot si vedevi gni dentro in chiase un eclape di fantazzi cence monture, ma plens di ferramente e di bombuti sator de panze. Cui si sentaculì, cui si distiraculà, cui si buttata al camarin a cirial di rosea o di bagnala per aule. Si ha di sacrificarsi tutti per di liberare l'Italia, al declarà il caporion. Ah, l'aiso aiutai todescs? Al domandà Masut. Iudaio alla in malore, a son loro la rovina dell'Italia, rispinderi in cialanglu di neri. Poi i consegnari un altro brengulù di chiarte e menare in via la vigelute. Dopo 15 dies arrivarono un ploton di italiani con gli sbarretti neris e anche chei i menzionarono che si scugnive sacrificarsi per salvare la patria. Ah, per parafuri todesc salvenga stai, disse il Biadvieri. Robis che lo sbusi in fur parfur sul momento. Dopo, mi diant che useme a Vieli e Dordel, lo lasarin in pace con tuns feuti in man e se tovarin tiransi da urli spioris. E Masut arresta l'incocalit a pensacce malans che avevin fat li so spioris e i todescs. I restavin giusti gli sdialinis, anche mo innocentis di tradiments quinti la patria. Una sera di viarte che al plovevi a Segloz, al sentì un chiadagliau di tons e di sunsur sulla strada, al mette il nas sulla rame e al viodia vignin denant caretons con un grum di ruedis dentro di un cinturon che non capive mai c'è mut che facessin alla indenant. E 4-5 soldati, con la musa nere, i saltarin in chiase. Ok, paesà, i diserin di legris che i neris, e poi spiegarin che lor a ierin da ura libera l'Italia, che zaromai ieri salve, e di tant contents che ierin, i scolarin fin l'ultime gote di vin e i mangiarin tutti gli sdialinis. E via lor. Masut, restat besol, al scomenzà a fai conz. Il ghiat al vignia sfreolasi intorno di une giambe. Al vignaressa iesi che tutto sei stat l'unic a non sacrificati pe patria, i bruntulà Masut. E allora ti sacrificarai io per fa fieste in grazia di liberazione. E dopo di velo chiapat pal copin, lo portà sul cioc e cioncià il chiaf con le masanghete e lo buttate pa diele. Così anche il ghiat si fase una idea di salvezze e di liberazione. A rendere adeguatamente la vivacità, il brio, l'umorismo, il senso umano che pervadono la produzione letteraria del Marchetti, crediamo sia il caso di presentarvi questa conte. Democrazie in Paradis. Unedì, al si presentà sul porton dal Paradis, un bocon di omenat calpareve un di chei che han mettuto in croce il Signor. E si mette a sdronden al batali. San Pieri, cagliere d'entri, mie cimpisulì, al spese a aviarzi la quartelute par cucafur. Oi là, galantom, c'è us dueliel, ise maniere di fa queste. E che l'altri. Viargimi, disse al. Viargius, cun che muse di giudeo coves. Là dentri andie di pies di me, tire che il clostri, muoviti, se no ti butti giù il porton. Cui ha dit candè di piesca dentro? So di me, non è mai entrato un baraba come voi. Spalanche i voi e tutti ne acquarzaras. Ma intanto viargimi. San Pieri, Cencedino e altri, isciare la quartelute sulla muse e si invie fur pal paradis un po' sore pinsir. E così l'antindenant al chialave a tor. Corpo di baco, cai là e capitave di viodi certis musis e di sentia fevelà tan malamentri e fin tremai anche a colà qualche croste di chespelosis che alcuni propri persuadisi che l'altri aveva dite la verità. E al pensava dentro di sé, «Cheste, ie biele, se il Signor si vise, mi dà la colpa a me dal sicur». I venne in quintri San Paoli. «Ciul di Pieri di questi sbandis, con che muse di là se mi sta? Ah, Paoli, se tu sapessi c'è che mi toglie». E i conte la parte. E biel che l'avin in denant, Non vegna l'inquintre giuste che il tal che San Pieri noi aveva voluto viarzi un moment prima. Ben, smutise queste, disse al San Pieri. Soio o non soio io il portonir dal paradiso? Dice bande se sono entrato qua dentro, vo. C'è ti imparti alla ti. Culio soi e culio stoi. Allora San Pieri e San Paoli si consearon fra di loro di mandare una compagnia di agni a fa una ispezione per tutto il paradiso fuori dentro. Subit al tornadon svolante un agnul e urdise: laiù da pit dal paradiso e io ne schialute e lì alle San Giuseppe che fa svigni su cui calun lui. Chiomo, disse al San Pieri, io stu cemut che ie. Ben, ma non è maniere di fa queste. Gemplà il paradiso di Chiochelis e di Lazarons. Ca, bisogna provio di Dorman e di Besoi, parce che non si può là con tal signor un scandalo di queste fate. Dal dite fat e mandin a clamare che gli altri s'acquestui e ti implantin il tribunale. I dan l'incarica a San Ivon di presentare l'accuse e comandin di là chioli San Giuseppe e menalu devant di loro. San Giuseppe Puarvieli arriva qua anche al podè e chiatansi denandi che il sinedrio al domandà. Ma c'è voleso cumò? San Pieri, presidente, i rispuint. Chialaidmo, San Giuseppe, nus displas propi, di vescugnut clamaus in giudizi, parce che vo o seis il più gran san del paradis, ma non podin fa di manco. Nus risulte che vo, con tu nestiale che aveis metù de iu da pi dal paradis, nus faseisi entra personis poc di sest. Allora le di band che no o sedin lazza insegna che parvini in paradis bisogna essi bons e vivi ben. Scelgeis un avvocato che us difendi e rispuindeit a quel che us domandarin. Po ben, o rispuindarai. Avvocati non m'incovente. E poi in paradis non dia diesi nessun. Allora diseit, parceves o fate che stiale laiù. Audi sta sempre di bantio. O savareis che io o soi sempre stato un puarom, ma non soi usata sta sull'ozio. E parce fases o entra in paradis di che in che non merte. Che co fas entra io e son due miei devots. Beh non, o conti io c'è razze di devots, ise clientele di tignicheli. Allieve su allora Sant'Ivon e al fas un discorso mostrando che la giustizia di Dio e va rispietata in tutti gli schiosis e che se due chisanze facessin in che maniere si potere sbrusare i vanzei e metti i sorrialte sglesis. E al finis, domandando che se ritirate via che schiale e mettuto un agnul di guardie da pi dal paradis. Po ben, disse al San Giuseppe, se vualtris la voleis al vostri mut, parons. Ma io ho chiapi la me femmine e il mio frut, e io voglio plantare il paradis tu un altri sit, e fieste finite. Ce vevino di dì gli apuestui, puarez, la scialute a ientimolà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.